Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre, un saluto al presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con te Carlo, riprendiamo in mano un argomento che avevamo toccato poco tempo fa, che era quello delle riconversioni delle lire in euro, perché avevamo detto che c'era stata la Cassazione che insomma apriva uno spiraglio a chi si era distrattamente dimenticato, diciamo così, di cambiare tanti soldi in contanti che magari aveva nascosto in soffitta o ha trovato presso la cantina del parente che ormai se n'è andato e ha lasciato questo agli eredi. C'è una importante novità, quindi drizzate bene le orecchie, amici di Blu Radio Veneto. Sì Francesco, un'importante novità che innanzitutto voglio anticipare prima di dirla, come queste novità danno grandissima soddisfazione a chi fa un certo tipo di lavoro e difende i consumatori, perché ricordiamo che impedire la conversione di euro è stato il governo Monti che qualche anno fa aveva anticipato la scadenza con una sortita, e quindi chi si aveva soldi o ha trovato soldi dopo l'8 dicembre di qualche anno fa non poteva più fare nulla e quindi si è trovato con il suo gruzzoletto che non aveva nessun valore. Chiaramente anche l'Adico si è appellata a questa legge e finalmente la Corte Costituzionale il 5 novembre ha di fatto sancito, ha riaperto quelli che sono i termini per poter riconvertire le lire in euro. Chiaramente il governo ha recepito questa sentenza, però ha dato come termine il 28 gennaio del 2016, oltre il quale dopo quel giorno lì veramente non si poteva più fare niente, chi non ha, come dire, doveva purtroppo rivolgersi a qualche collezionista o utilizzarli come carta straccia. Sì, per accendere il fuoco del caminetto. Vabbè, quindi il 28 gennaio che se non erro è di giovedì, quindi quello è l'ultimo giorno utile e buono per poter cambiare questi soldi, ma che procedure ci sono da fare? Sì, questo è l'ultimo termine e vale la pena veramente ricordarlo nel collegamento, 28 gennaio, perché poi veramente con grande dispiacere le persone dovranno sapere che non si poteva fare nulla. Innanzitutto c'è da dire a Francesco che sono persone che continuano magari per effetto di decesso di qualche caro o magari avevano qualche gruzzoletto messo da parte ancora qualche anno fa a trovare queste cifre che a volte possono anche diventare ingenti. Pensiamo per esempio a un socio dell'Adico che aveva avuto 35 milioni ma addirittura c'è chi ne ha avuti 40 e via dicendo, come qualcuno che magari aveva una decina di milioni. Tutte cifre che le persone hanno trovato in cantina o in soffitta o proprio, come dire, sotto il materasso, perché soprattutto una volta c'era più la tendenza a non portare i soldi in banca, forse anche adesso magari viste le ultime vicende, ma a conservarli a casa. L'unica cosa, purtroppo, noi come Adico ci siamo messi a disposizione, stiamo ricevendo decine di persone ogni giorno perché stiamo predisponendo, abbiamo già fatto tutta la modulistica da compilare e consegnare alla Banca d'Italia, e soprattutto ricordarsi che bisogna fotocopiare, perché ce lo richiede la Banca d'Italia, la matrice di ogni singola banconota. Quindi è un lavoro abbastanza complesso, no? Quindi penso si lasciano stare le banconote da 1.000 lire e si vada su quelle di taglio un po' più grosso. Beh, è chiaro che se qualcuno ha poche lire conviene quasi conservarle e rivolgersi a qualche collezionista, però in ogni parte pensiamo al signore che aveva 40 milioni, deve fotocopiare tre banconote da 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 lire. Certamente questo signore è disperato perché ci metterà qualche giorno, ma al di là di questo c'è una modulistica, c'è un modulo da compilare, c'è da fotocopiare tutto, poi noi come Adico richiediamo la copia del documento di identità del codice fiscale e per chi ha bisogno i nostri uffici sono a disposizione, noi abbiamo già attivato insomma tutta la macchina qualche giorno fa e oggi sono veramente tantissime le persone che si sono rivolte a noi per avere assistenza in questa vicenda. Siamo contenti perché purtroppo, come detto, il decreto Monti, il governo Monti qualche anno fa era anticipata la prescrizione della conversione, i termini di conversione, per cui moltissima gente che magari aveva trovato e aveva a casa o aspettava la scadenza per poter non spendere, come molte persone ci avevano detto, oggi gli abbiamo dato, insomma, la speranza di potersi rivedere e mettere in tasca un gruzzoletto che magari prima non potevano più farne conto. Sono, come dire, un po' soldi piovuti dal cielo a questo punto, perché potevano essere persi per sempre. Ricordo associazionedifesaconsumatori.it per avere poi contatti con l'Adico, telefonate tranquillamente per chiedere lumi. Grazie al presidente Carlo Garofolini, che ritroviamo anche puntuale in un prossimo appuntamento con l'inizio della settimana prossima. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.